Scrivere per ragazzi significa, secondo me, ed è importante scrivere anche per ragazzi, cioè pensare di avere un pubblico in più, non un pubblico in meno, altrimenti succede una cosa molto brutta, cioè un autore pratica quella che chiamerei la condiscendenza, cioè si mette a levarsi delle cose, pensa di abbassarsi per parlare a qualcuno che ne sa meno di lui, no? Di doversi mettere al livello di qualcun altro chinandosi, e questo è un gigantesco errore. Come autore per bambini, ma ho sempre pensato che scrivere per bambini fosse scrivere anche per bambini. In questo caso scrivere per ragazzi, poi in questa fascia di vita dei giovani adulti, ho pensato di raccontare storie che una storia che fosse vicina a quello che i giovani adulti, chi alla fine dell'adolescenza prova. E in questo caso il romanzo si intitola Oltre una soglia, proprio di trovarsi su una soglia. È un racconto di chi ha paura, la paura degli adulti che attraversa tutto il romanzo, e in realtà, me ne sono reso conto una volta scritto, la paura di diventare adulti.